trabajo. Buonasera. Che cos'è oggi una città per noi? Queste non sono parole mie, ma sono delle parole usate da Italo Calvino nell'introduzione del suo bellissimo racconto, dei suoi racconti, Le città invisibili. Le città invisibili sono un sogno che nasce dal cuore delle città invivibili. Quello che sta a cuore al personaggio del nostro autore sono le ragioni segrete che hanno portato gli uomini a vivere nelle città, ragioni che potranno valere al di là di tutte le crisi, di qualsiasi crisi. Le città sono un insieme di tante cose, sono un insieme di memoria, di desideri, di segni, di un linguaggio. Le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia, dell'economia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi. Sono dei pezzettini che ho tratto da alcune poesie, da alcuni racconti che parlano proprio delle città. Passiamo a una poesia molto bella di Charles Bukowski, che è intitolata appunto Una poesia è una città, una città è una poesia. In questa poesia che parla della città ci sono dentro tanti temi, tanti elementi che forse accomunano tutti noi. Che cos'è una città? Che cos'è una poesia? Una poesia è una città piena di strade, piena di tombini, piena di santi, di eroi, di mendicanti, di pazzi, piena di banalità e di roba da bere, piena di pioggia, di tuoni, di periodi di siccità. Una città è una poesia è una città in guerra, una poesia è una città che chiede a una pendola perché? Perché ti muovi? Una poesia è una città che brucia, una poesia è una città sotto le cannonate, oppure sotto le stelle, è uguale, in fondo. Le sale dei barbieri sono piene di cinici ubriaconi, oppure sono piene di gente per bene. Una poesia è una città dove Dio cavalca nudo per le strade, come Lady Godiva, dove i cani latrano di notte e fanno scappare la bandiera. Una poesia è una città di poeti, una città è piena di poesie, le poesie sono piene di poeti, per lo più similissimi tra loro, invidiosi e pieni di rancore. Tutti gli esseri umani provano del rancore, spesso. Una poesia è questa città, la nostra città, ora, adesso, domani, 50 miglia dal nulla. Le 21.010 o le 21.10 della sera, le 9.09 del mattino. Il gusto del liquore, il gusto delle sigarette, niente poliziotti, ma nemmeno innamorati che passeggiano per le strade. Questa poesia, questa città che serra le sue porte, barricata, quasi vuota, eppure la gente circola, la gente la vedo, la sento, ma non si sente abbastanza. È una città luttuosa, senza lacrime, invecchiata senza pietà, i monti di roccia dura, l'oceano come una fiamma di lavanda, una luna priva della sua grandezza, una musichetta che esce dalle finestre rotte. Una poesia è una città, insomma, una città è piena di poesia, dovrebbe essere piena di poesia. Una poesia è una nazione, una città è una nazione, una poesia è il mondo, una città è il mondo intero. Ma ora metto queste parole sotto vetro perché lo veda il pazzo direttore, perché le veda il pazzo direttore, e la notte è altrove, e signore grigiastre stanno in fila, un cane segue l'altro fino alla prima sponda del lago, mentre piccoli uomini vaneggiano di cose che non possono fare, che non sono in grado di fare, perché forse sono troppo piccoli. Oh, buonasera a tutti, ringraziamo Miviana Ronchetti e il maestro Massimo Laura che ci hanno introdotto la serata. Io sono Enzo D'Antuono, presidente dell'ARCI, e sono qui a presentarvi la serata. Per dire due cose, intanto il senso di questa assemblea. È molto semplice, noi abbiamo voluto realizzare anche con un atto simbolico il desiderio della città di riprendersi in qualche modo la politica. Lo facciamo, tanti di noi hanno, come dire, una lunga esperienza alle spalle e ci rendiamo conto che è quanto mai necessario riappropriarsi della politica, riappropriarsi delle piazze, riappropriarsi della città e fare in modo che questo nuovo percorso elettorale che stiamo costruendo sia veramente un percorso partecipato e che in qualche modo darà dei risultati sicuramente. Abbiamo strutturato l'assemblea in modo molto semplice, intanto è aperta, nel senso che come dire, non è costruita per indirizzare in qualche modo poi le opinioni delle persone. Abbiamo pensato a una serie di piccoli interventi sotto forma di lettera al candidato che alcuni di noi leggeranno e che metteranno un po' a fuoco alcuni temi sui quali avremo poi da discutere, un modo per così anche qui per rappresentare e per dire a chi si candiderà che comunque c'è, come dire, una città che vuole partecipare e che chiunque lo farà dovrà farlo oggi nel momento in cui, come dire, condurrà una campagna elettorale, ma poi dovrà farlo domani nel momento in cui andrà a governare. Quindi io adesso non ho l'elenco delle persone che parleranno, io sono il primo, adesso leggerò la mia letterina e poi Luca Sassi si occuperà di come dire, far intervenire le altre persone. Dunque, la mia lettera riguarda molto velocemente il problema legato ai giovani e alle associazioni. Cara candidata sindaco, caro candidato sindaco, chi ti scrive è una persona che da sempre opera in questa città nel campo della cultura e dei diritti. 30 anni fa, finito il sogno rivoluzionario, insieme ad altri abbiamo fondato il Rock Club 52, con l'intento di creare un luogo autogestito di incontro e aggregazione che permettesse ai giovani della città di sviluppare la propria creatività e voglia di fare. Già allora lamentavamo come Como fosse una città spenta, che offrisse poche possibilità ai suoi giovani e come le amministrazioni fossero distratte sul tema. Dicevamo che le associazioni sono il sale della democrazia e chiedevamo sostegno, progetti, impegno, perché il tessuto associativo potesse svilupparsi il più possibile. Eppure esistevano molte realtà importanti sul terreno della cultura e delle arti. C'era il Teatro Città Murata, Jazz Club, c'era Centofiore e molti altri. E francamente non pensavo che 30 anni dopo la situazione potesse essere ancora peggiore. Molte realtà non esistono più, altre sopravvivono a fatica, chiudono cinema e locali. Musicisti girano in città con la richiesta di spazi e i giovani non sanno dove andare. Ingiunzioni e divieti sono lo strumento di governo di questa amministrazione. Como appare sempre più triste e vuota. Eppure questa città dispone tuttora di molte energie che, se stimolate e sostenute, possono fare molto per rianimarla. Non ti dico ora cosa concretamente potresti, a mio parere, fare. Lo farò più avanti nel tempo. Quello che ti chiedo oggi è innanzitutto una svolta nella filosofia e nel metodo di governo. Come dicevamo 30 anni fa, una città non si governa bene dall'alto, solo dall'alto. Non vogliamo un principe che seppur illuminato resta principe. Non vogliamo l'uomo o la donna della provvidenza. Vogliamo una persona che col suo governo sia capace di interagire con la società civile organizzata e con i cittadini tutti, che faccia di questo un architrave dell'azione di governo, che nell'esperienza di cittadinanza attiva trovi le risorse per governare e far crescere la città, che offra spazi e occasioni ai giovani e alle associazioni affinché possano restituire alla città stessa servizi e altrettante occasioni. Ti ringrazio con i miei più sentiti auguri per te e per noi, perché finalmente ci possa essere un cambio in questa città. Grazie, Enzo D'Antuono. Ringrazio Enzo e mi presento, sono Luca Sassi, ma qua rappresento un po' questo movimento che è nato, Primarie Vere per Como, che è nato dall'iniziativa di richiesta dell'indizione delle primarie per Como, che all'inizio non era una cosa scontata. Ora pare più o meno ufficiale, anche se non c'è ancora una data di indizione delle primarie, un regolamento e alcune altre cose, che le primarie si faranno e si faranno abbastanza presto. E questo gruppo è un gruppo che si è già riunito con delle assemblee in cui tutte le persone hanno potuto dire la loro opinione anche su delle caratteristiche che vorrebbero che avessero queste primarie perché siano effettivamente vere. Questa sera Enzo ha presentato la sua lettera Prendo un po' le danze, abbiamo anche deciso di coinvolgere anche un musicista milanese di nascita, no, sanremese di nascita, milanese poi di crescita e con maschio d'adozione, e una lettrice anche, un'attrice teatrale come Miriana Ronchetti, anche per dare un po' quel senso di leggerezza, perché pensiamo che la cultura debba ritornare anche sulle strade a Como, nelle piazze. Non sentitevi in imbarazzo se non avete preparato una lettera come qualcuno ha fatto rispondendo al nostro invito. Noi abbiamo già alcuni nomi di persone che interverranno, anch'io più tardi vi vorrei leggere la mia lettera al candidato sindaco, e nel caso qualcuno voglia intervenire, se Marta si alza, che è un'altra delle nostre amiche di Primarie Vere per Como, Marta verrà da voi anche per segnalare poi il vostro intervento, cercheremo di inserirlo in questa scaletta molto aperta. L'unica cosa, appunto, chiediamo rispetto di un tempo decente, insomma, di intervento. Io chiamerei, ci sono già una lista di interventi e scelgo un po' a caso quello più vicino, Luca Fosdituri, per cui lo chiamerei sul palco se vuole darci la nostra lista. Buona serata a tutti e buona partecipazione. Allora, io ho un po' di richieste al candidato sindaco. Prima di tutto al candidato per le primarie del centro-sinistra. Allora, le primarie, volevo chiarire che sono le primarie del centro-sinistra, anche perché gli altri non sappiamo che tipo di primarie facciano. E cosa chiedo al candidato sindaco di Como? Lo chiedo a chi sosterrò per le primarie e lo chiederò poi a chi uscirà vincitore dalle primarie. Prima di tutto chiedo che non abbia paura a essere un personaggio di rottura, di bloccare la cementificazione di Como, di avviare di concerto con gli altri enti locali la promozione dei veri percorsi di riqualificazione per lavoratori e lavoratrici che in questi anni di crisi hanno perso il loro lavoro, di promuovere la strutturazione di un vero campus universitario, di rilanciare la cultura locale, non come non ha fatto la Lega Lombarda, attraverso la valorizzazione del nostro importantissimo patrimonio artistico e storico, di abbandonare le privatizzazioni dei servizi essenziali, di farmi bere acqua pubblica, di farmi raccogliere rifiuti differenziati che non vengano poi bruciati insieme, di appoggiare le iniziative a tutela della scuola pubblica e laica, di tutelare gli spazi verdi, di piantare un albero per ogni bambino nato, di non lasciare povertà e disagio alla sola generosità del volontariato, di guardare ad esempio a Novi Cini, penso a Lugano, per ipotizzare la promozione di musica e culture eterogenei, di rappresentare tutti i cittadini residenti, anche coloro che non votano, i minori e gli stranieri. Di dimenticare che il pareggio di bilancio lo si ottiene a suon di multe. Di ripristinare il nostro bellissimo lungo lago. Di liberarci dagli attuali amministratori arroganti e incapaci. Di bandire da Como la feccia di Forza Nuova. Di ribadire il carattere antifascista della nostra città, ospite del monumento alla resistenza europea. Di istituire il registro delle coppie di fatto e, per ultimo, di far piovere di meno, perché Como è veramente troppo, troppo umida. Grazie a Luca Fostituri. Tanto ringrazio anche Raffaele Faggiano, perché stasera poi si sorgeranno anche degli spunti interessanti. Abbiamo Raffaele che sta riprendendo tutto, non voglio che vi sentiate ancora più in soggezione magari rispetto al fatto di venire qua, però ecco, grazie al tuo contributo in modo potremo riutilizzare anche queste immagini. Ho segnato e segnalato nella mia scaletta Mauro Meggiolaro, che inviterei a intervenire. E ripeto ancora che Marta qua è un po' la regista dietro le quinte della serata, per chi volesse intervenire e segnalare il suo intervento. Prego Mauro. Buonasera a tutti, anch'io faccio parte del gruppo Primarie Vere per Como. Ecco la mia lettera ai candidati. Cari candidati, cari candidate, sono un cittadino di Como. Sono arrivato qui nel 2003 per scappare dai prezzi e dal caos di Milano. Ho trovato una città bella, tranquilla, rilassata. Per anni l'ho vista solo la mattina presto e la sera tardi, con gli occhi assonnati del pendolare. Dal 2009 vivo e lavoro in città, grazie a internet. Posso dormire 2 ore in più al giorno, ma nonostante tutto rischio di addormentarmi lo stesso. In città è rimasto un solo cinema con una programmazione streaming fitta. Nessun locale fa musica dal vivo e a mezzanotte bisogna fuggire di corsa in silenzio per non disturbare il sonno dei giusti. Ho l'impressione di vivere in un fermo immagine, in una cartolina sbiadita. Como è una città che ha paura. Dei giovani, degli immigrati, degli ubriachi, dei diversi, ma soprattutto della Guardia di Finanza. I pochi parchi sono chiusi da cancelli di ferro, molte panchine sono state rimosse. Da 3 anni c'è stata tolta anche la vista del lago. Cari candidati, care candidate, la prima cosa che vi chiedo è di non avere paura. Prima di tutto, non abbiate paura di vincere. Ricordatevi che non vi candidate solo per vincere le primarie, ma anche per mandare a casa un'amministrazione incompetente, arrogante, che ha calpestato in modo sistematico i diritti dei cittadini. Non abbiate paura di aprire le porte alle innovazioni, ai giovani, agli stranieri, ai turisti. Non abbiate paura di puntare i piedi e nemmeno di pestarli. Como ha bisogno del vostro coraggio, ha bisogno di spazi pubblici per parlare, cantare, grigliare, socializzare, ha bisogno di contaminarsi, mescolarsi, lasciarsi andare. Per questo vi chiedo, cari candidati e care candidate, di aprire le porte dei vostri uffici, delle vostre segreterie, di scendere in strada. Scendete ad ascoltare e capirete che noi, i cittadini della vostra città, siamo il miglior antidoto alla paura. E ricordatevi sempre che la paura di un futuro che non conosciamo può essere solo superata con le immagini e le idee di un futuro che vogliamo fortemente. Cordiali saluti, Mauro. Grazie mille a Mauro. Abbiamo abbassato un po' il microfono perché è una voce fortissima. Però adesso chiamiamo Grazia Villa, che ha preparato un suo intervento, e vediamo se dobbiamo rialzare. Grazie. Veramente abbassare il microfono. Puoi tenerlo in mano. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Io ho ceduto all'insistenza di Giampaolo Rosso, che mi ha invitato a scrivere questa lettera, e ho ceduto all'insistenza nonostante le mie perplessità, perché per questa nuova avventura per la città di Como motivi personali e impegni dai quali non mi posso esimere nemmeno per un'esenzione temporanea non potranno garantire una mia partecipazione attiva almeno come vorrei. Però Giampaolo ha insistito e mi dice: scrivi ugualmente. Lettera aperta alla sindaca o al sindaco che vorrei, anzi no, alla città che vorrei. Ho provato a scriverti, cara candidata o caro candidato, ma le parole non riuscivano a mettersi in fila. Pensando e ripensando a quali abiti virtuosi mi sarebbe piaciuto vederti indossare per affrontare questa fatica, questa avventura, questa impresa ardita di riuscire a risvegliare una città in apparenza addormentata dall'incantesimo di una politica cattiva e resa muta dal sottile maleficio che sembra stordire le coscienze ed immobilizzare le speranze di un cambiamento ritenuto impossibile. Come posso chiedere di vestirti, oltre che di onestà, di competenza, di sapienza, di rispetto delle leggi, anche di fantasia, di fortezza, di mitezza, di visioni utopiche e di concretezza, senza essere giudicata una romantica moralista? O addirittura chiederti di pronunciare, oltre al giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione, anzi lasciami sognare, che bello sarebbe inventarsi una cerimonia davanti a tante bambine e bambine, anche senza cittadinanza italiana, ma insieme con la speranza di vivere liberi in questa città. Insomma, addirittura chiederti di pronunciare dei voti laici. Povertà di potere, castità di intenti e di interessi, obbedienza ai problemi concreti, ai bisogni reali della gente, senza essere giudicata un accatto comunista fuori dal tempo e dalla storia, e fare inorridire la libertà di coscienza, magari anche la mia. O infine domandarti di adornarti con me, donna o uomo che tu sia, con il manto del sogno di una città in cui il sapere delle donne possa insaporire la vita di ogni abitante e la sapienza di una pratica di relazione maturata tra donne possa trasformare la qualità politica delle relazioni tra cittadine e cittadine, tra abitanti e istituzioni, senza essere giudicata una superata vetero femminista. Poi ho scoperto che sbagliavo tutto. Non solo perché da una parte al centro della mia lettera c'era sempre ancora un io, cittadina sola con la mancanza di coraggio, la paura del giudizio, il balbettio di una riproposta, oppure cittadina troppo stanca di battaglie perdute, di utopie non raggiunte, di insogni infranti di bella politica, di vite indipendenti non realizzate. O invece cittadina libera dall'incantesimo per una massiccia assunzione dell'antidoto della vigilanza, della condivisione, dell'ascolto, delle amicizie, della ricerca in questa città e nel mondo di tutto ciò che ancora non fa sopire, ma sempre un io da una parte e dall'altra tu, candidata o candidato, ugualmente sola, eroe o eroina, magari vestita dei miei abiti virtuosi. Sbagliavo tutto perché la lettera che volevo scrivere doveva avere non solo un altro indirizzo, ma un'altra mittente. L'indirizzo doveva essere la città che vorrei, la mittente, la città che sono e che vorrei diventare. Stavo cadendo nella trappola del sindaco potestà, del capo della città, dell'uomo donna giusto al momento giusto, cioè quello della vittoria a tutti i costi, del potente a cui il suddito, l'io di cui sopra, si rivolge, singolo o singola, o riunita in una lobby di pressione, che una volta in italiano si chiamava clientela buona. Invece no, no, no. Tu sei solo la persona che si assume la responsabilità politica e giuridica di rappresentare la città che insieme dobbiamo costruire, ricostruire, inventare e reinventare. E noi, i mittenti, dobbiamo essere non solo in tanti, tante, molti o molte, ma il più tutte e tutti possibili. Passo dopo passo, casa dopo casa, strada dopo strada, scuola dopo scuola, ospedale dopo ospedale, chiesa dopo chiesa, luogo di lavoro dopo luogo di lavoro, mercato dopo mercato, piazza dopo piazza, giardino dopo giardino, lago dopo lago. La bacchetta magica del risveglio deve toccare uno dopo l'altra le persone cadute nel sonno, perché noi lo sappiamo che siamo vivi dentro la statua di vetro. Lo sappiamo perché il materiale della vita è trasparente. Lo sappiamo per l'esperienza diretta dei nostri torpori, ma tu da sola o da solo non puoi farcela. Potrebbe accadere solo quando, man mano che ognuno si risveglia, è in grado di risvegliare chi gli sta vicino, e solo così tutti potranno possedere il dono della speranza che scalda i cuori e scioglie l'incantesimo. Quale potrà essere questo strumento, se non quello di credere tutti insieme nella fattibilità dell'impresa, con uno sguardo critico ma grato al passato per fare tesoro delle esperienze di chi ha provato a resistere, di chi ha provato a cambiare, di chi non si è lasciato sedurre, ma con tutto il desiderio di capire ed accogliere la voglia di futuro, le nuove richieste, i nuovi linguaggi, le attese di chi viene dopo di noi. Quante storie da ascoltare, progetti da esaminare, proposte da riprendere, associazioni da incontrare, esclusi da scovare, poveri da vedere, donne e uomini da cui imparare. E per fare tutto questo un sindaco o una sindaca non bastano. Ci vuole, come uso ormai dire, una squadra, ma come mi piace di più sognare, un coro o un'orchestra. È vero, questa lettera è in vista delle primarie e quindi diretta alla scelta di un'unica persona sulla quale far convergere il consenso. Si sa, questo è il gioco della democrazia rappresentativa che non disconosciamo. Ho quasi finito. Ma questo tipo di democrazia non ci basta, non ci è mai bastata. Persino le madri e i padri costituenti avevano osato di più, e dopo di loro tutti quelli e tutte quelle che hanno creduto in una democrazia partecipativa, secondo le cui regole, Milano lo ha insegnato incredibilmente, la virtuosità delle primarie non sta nell'individuazione di chi potrà vincerle, ma nella scelta consapevole ed accorta di tutti coloro che si candidano per le primarie, i quali e le quali, a partire dalla ricchezza delle proprie differenze, fin da subito hanno già condiviso e pensato insieme, non solo tra loro ma con chi li sostiene, la città che vorrebbero governare, tanto da diventare persino fungibili. Ma allora, dopo tante parole, mi chiederai: Grazia, ma qual è la città che vorresti? Lo sai, la risposta è racchiusa nel mistero dell'agire comune. Non esiste ancora perché è quella che andremo a ideare, realizzare e governare insieme. Ti ringrazio fin d'ora per la tua disponibilità e scusami per tutto l'aiuto che non ti saprò o potrò offrire. Buona strada e buon coraggio a te e a noi. Grazie, grazie Villa. E nella speranza, anzi nella convinzione che il racconto non venga interrotto da un brano musicale o da un'elettropoetica, ma anche, anzi, che magari un momento così ci aiuta un po' a iniziare a riflettere sulle cose che stiamo sentendo stasera in una soluzione di continuità, invito Massimo Laura, il maestro, a farci ascoltare un po' di musica e Asturias, Albeniz. È un brano pianistico trascritto da Andrea Segovia per chitarra. Thank you. Un altro applauso a questo signore bravissimo. Allora, io mi sono preparata la lettera che hanno scritto alcuni miei allievi del corso di teatro, che sono dei bambini che l'anno scorso hanno preparato uno spettacolo sulla città ideale, tratto da un romanzo di Gianni Rodari. Allora, così, mentre pensavo, mi è venuto in mente questo copione e ora vorrei leggervi questa lettera scritta da bambini della terza e quarta elementare di una scuola della Val d'Intelvi. Una città ideale oggi non esiste, ma puntini, puntini, puntini. Devo leggervi anche i puntini perché nel loro discorso sono un linguaggio. Gentili signori o signore, una città ideale oggi non esiste, ma non perché sia irrealizzabile costruirla, solo che quando ci raccontano delle cose i nostri genitori, ci sembra che la cosa sia tanto, tanto, tanto, tanto, quattro volte difficile. Come in tutte le cose faticose ci vuole coraggio e tanto impegno. Allora, per questo bisogna essere convinti di ciò che è più giusto fare. Noi ci chiediamo una cosa: secondo voi i bambini potrebbero diventare sindaco? Le grandi opere del passato sono state realizzate con fatica, così ci racconta la maestra, però troppo spesso le hanno scelte solamente coloro che hanno più soldi, più forza, i più potenti, e non sono state decise dalla plebe, così hanno scritto loro, dalla plebe, il popolo, insomma. Non ho cambiato una parola, ho aggiunto solo qualche punto, qualche virgola. L'ideale sarebbe forse lavorare insieme per realizzare cose utili, avere un posto, il comune, la casa del popolo, dove noi potremmo trovare anche delle cose da mangiare, tipo caramelle, cioccolatini. Ma il sindaco ci regalerà tutto questo? Oppure, senza avere tutte queste cose, non potremmo avere dei libri gratuiti? Così i nostri genitori non dovranno andare in cartoleria e pagare i libri nel giro di 3-4 volte. Noi siamo solo un gruppo di bambini, siamo in 7, ma prima di scrivere questo articolo, come ci ha chiesto la Miriana, che sono io, abbiamo sentito le opinioni dei compagni della nostra classe e anche quelli più grandi. Ecco le risposte. Abbiamo pensato di chiedere anche agli adulti, perché ogni tanto bisogna dargli retta. Allora, più spazi verdi, migliori stipendi per i nostri genitori, le pensioni un po' più alte per i nostri nonni, così ci potranno fare qualche regalino in più. Cose sicure per tutti. Violenza nelle strade? No. Bullismo? No. Aperta parentesi. Ma che cos'è questo bullismo? Ci parlano sempre del bullismo. All'inizio noi pensavamo fossero delle giacche con tanti bulloni. Migliore organizzazione della raccolta differenziata e del riciclaggio. Pensate che parola difficile, l'abbiamo copiata dal diario della maestra. Niente inquinamento. Cibo più sano, più trasporti ecologici. Cosa vuol dire ecologici? l'organizzazione più importante è anche quella del traffico, dei mezzi urbani, dei servizi di pubblica utilità, così la nostra maestra non arriverà sempre in ritardo a scuola, lei che viene da lontano e deve prendere due pullman. E poi l'assistenza medico-sanitaria, che dovrebbe essere più importante, più gratuita. I miei nonni sono sempre molto arrabbiati perché dicono che i pannoloni non arrivano mai in tempo. Noi bambini sogniamo anche delle città divertenti, con giardini pubblici e parchi attrezzati con giochi, neanche tanti, però puliti, senza le sigarette e le cartacce. Ma non le puliscono le strade, non le puliscono i parchi, e poi anche dei percorsi per i nostri amici disabili. Nella nostra scuola ci sono 3 bambini con la sedia a rotelle. Strade dove si vada con le biciclette, le carrozze, le carrozze non ci sono, però sarebbe molto bello vedere delle carrozze ancora con i cavalli. Come a Vienna, noi siamo stati a Vienna e abbiamo visto le carrozze con i cavalli e sopra c'erano le persone. Le barche a remi o a vela per risalire i fiumi o con mezzi più moderni e veloci, ma sempre funzionanti e con l'energia pulita. E poi, per far contenta la nostra maestra, un teatro grande, come un circo che sappia ospitare le emozioni di tutta la gente di ogni appartenenza, di ogni colore, di ogni religione. E mettiamoci anche i nostri amici animali. Forse è un po' una fantascienza, ma basta provarci, noi ci stiamo convinti che qualcosa può e potrebbe cambiare. Tutti dovrebbero diventare come noi e tutte dovrebbero diventare delle città del mondo dove ognuno abbia di che vivere, dove ognuno possa viaggiare liberamente senza barriere di razze, religioni e lingue. E intanto ci capiamo lo stesso, se ci guardiamo bene negli occhi, certo che ci capiamo. Cittadini della terra con gli stessi doveri e diritti, senza discriminazioni. Ho scritto giusto? Marco, Alessio, Giorgia, Valerio. Grazie Miriana che ha interpretato i bambini. Magari poi interviene anche qualche bambino, però intanto li abbiamo sentiti interpretati da te. Ricordo che c'è Marta, dov'è Marta? Si alza la mano. Comunque c'è in giro Marta che raccoglie eventualmente gli interventi di chi, i nomi di chi vuole intervenire. La stessa Marta può anche raccogliere l'email per chi si è affacciato solamente stasera a questo movimento che sta nascendo e sta crescendo di Primarie Vere per Como. Che è un movimento appunto per sensibilizzare le persone anche alla partecipazione in vista delle primarie. Chiedo a Ida Sala di raggiungerci e... ecco Ida Sala, Associazione Vita Indipendente. Possiamo... c'è un bene comune che si chiama libertà e c'è un bene comune che si chiama uguaglianza. Sono i due ingredienti che costituiscono la vita indipendente. Vita indipendente è un termine che è stato coniato dalle persone con disabilità, non ho visto raccontare la storia, ma sta a significare che alle persone con disabilità non basta essere ben accudite, non vogliono essere oggetti di accudimento, vogliono essere protagoniste della loro vita. Come tutti. Per poter fare questo bisogna prima di tutto essere previste, quindi ci vuole una città che ci preveda, è una città che è fatta da cittadini che sanno che si può diventare persone con disabilità o persone anziane e che quindi devono dipendere dal resto della cittadinanza. Ci sono leggi che la difendono, c'è la Costituzione italiana, c'è la Convenzione ONU, ma non è applicata, non sono applicate, o quando lo sono solo per pochi privilegiati. Noi che la possiamo fare ci tocca sentirci privilegiati. e non volemmo poterci pensare così. Volemmo che tutte le persone possano essere libere. Un'altra cosa importante per essere indipendenti è l'assistenza personalizzata, cioè personale che sia scelto da noi, formato da noi, stipendiato da noi, perché questo ci permette veramente di poter avere il controllo sulla nostra vita. Questo non piace, probabilmente non piace a chi gestisce gli istituti, e sicuramente crea frizione anche con le cooperative, però le persone con disabilità non sono nate per dar da lavorare, e quindi non ci piace pensarci così, ci piace pensarci essere uguali agli altri. E quindi la città che ci vuole accogliere deve pensarci in questo modo, spero che ci pensi in questo modo. Ok. Grazie a Ida Sala. Vedo Luigi Nonessi, che ho in scaletta, se vuole aggiungerci per un intervento la sua lettera al candidato sindaco. Qua ci sono delle sedie libere per chi volesse accomodarsi e non ha portato la sedia, contravvenendo il nostro invito. Prego. No, buonasera, io ho fatto una riflessione, spero che il mio candidato sindaco sia presente e prenda nota lui e tutto il gruppo che lavorerà con lui. Sono Luigi Nonessi, sono uno dei tre portavoce di Paco e sono consigliere provinciale delle Acri. Vorrei sottolineare e proporre al futuro sindaco idee e situazioni che il gruppo Paco a cui appartengo elabora e discute, situazioni che parlano specificatamente di sociale, di persone, di ultimi, perché la Como che vogliamo è una città solidale e non egoista, è la città della compagnia e non della solitudine, è la città dove tutti stanno bene contro la città di chi sta bene solo se ha i soldi. Parlo delle ultime cronache della città. Ci sono persone senza fissa dimora che la notte trovano riparo in via Tommaso Grossi, in una ex scuola. Come si risolve per l'attuale amministrazione il problema? Chiudendo lo stabile, murando gli ingressi, non preoccupandosi delle persone, di aiutarle, di se possibile integrarle. Si chiude lo stabile. La gente così non vede, non dà più fastidio a queste persone. E questa è la città che vogliamo. Come danno fastidio anche le persone che stanno sotto il broletto, cui magari viene data la multa perché ti chiedono un euro per un caffè. Penso che sia una cultura della città che va assolutamente cambiata, qui la città solidale contro la città egoista. Questo con un centro, parlo di quello di Prestino, dignitoso, appena ristrutturato, che è costato tanti soldi alla collettività, quindi a tutti noi, ma è sempre chiuso, salvo un piccolo periodo è sempre chiuso, con tutti i bisogni, con tutte quelle persone che nonostante un dormitorio che la città purtroppo sono ancora in giro. Siamo e ci vantiamo di essere città messaggera di pace, una qualifica che ci fa molto onore, non pretendo, anche se un po' di coraggio ogni tanto lo potrebbe fare, che il sindaco farebbe come la pira, anzi spero che il prossimo mio candidato sindaco sia come la pira, che intervenga a limitare magari i contrasti tra Israele e la Palestina, infatti siamo gemellati con due città di questi paesi, ma pensateci, da mesi in città ci sono dei profughi arrivati dalla Libia e la città, questa amministrazione cosa ha fatto, cosa fa per loro? Io penso che il mio futuro candidato sindaco sia coinvolto in questa situazione, cambi la mentalità della città e non lasci tutti sulle spalle di due associazioni e magari di un prete. Penso come sia stata più bella questa città se avesse più dialogato con le persone di altri paesi, di altre culture, di altre religioni che vivono a Como. L'impegno che do al futuro sindaco è quello di favorire e definire forme concrete di partecipazione alla vita della città per gli stranieri, ricordandosi della gestione positiva delle diversità, riconoscendo il contributo agli stranieri, il contributo economico e imprenditoriale, guardate quanti attività commerciali ormai ci sono, che hanno e danno al nostro territorio. Sappiamo tutti che il welfare non è un lusso, le politiche sociali garantiscono il benessere alle persone, le politiche sociali sono per tutti perché accompagnano le persone nel loro ciclo di vita, dall'infanzia alla vecchiaia. Tante volte mi accusano di pensare solo agli ultimi, però stiamo attenti, di questi tempi tutti possiamo diventare ultimi e non possiamo sempre far l'elogio della carità e del buon cuore per risolvere i problemi di queste persone. Io dico al mio futuro sindaco, meno male che c'è la carità di qualche prete, che c'è la Caritas, ma ricordo una frase di Paolo VI, un papa a cui sono molto legato e non quindi mi pare un comunista o uno statalista. E Paolo VI ha detto: non sia dato alle persone per carità quello che dovrebbero avere per diritto. Quindi riconoscere i diritti, rispettare le persone, rispettare la città. Qui ancora la città solidale contro la città egoista. E come sopportare, lo dico perché mi è appena capitato, che nelle circoscrizioni ci siano fissi dei cartelli. Il servizio sociale è sospeso dal 18 al 9 settembre, quindi non riceviamo il pubblico. Rivolgetevi al servizio pronto anziani, numero verde non me lo ricordo. E sentirti rispondere, qui è il pronto servizio per anziani, se quella persona è da 2 mesi che dorme fuori può farne un'altra settimana, si presenti dopo il 9 settembre. E questo dopo che il dormitorio pubblico aperto tutto l'anno, cosa stimolata da un referendum che il mio gruppo ha favorito al massimo, quindi occorre anche un luogo di pronto intervento sempre aperto e sempre accogliente. Un altro consiglio che do a questo mio sindaco futuro. Non si può poi parlare di politica per la casa, occorre una precisa ed esatta mappatura aggiornata delle risorse abitative della nostra città. La percezione è che ci sia un patrimonio immobiliare fatiscente che non può e non può essere assegnato. Vedo tanti vani vuoti, io stamattina per esempio ho visitato un amico che abita nelle case di via San Bernardino. Sono consapevole degli ostacoli normativi e pratici di assegnare appartamenti non perfettamente ristrutturati. Ma una riflessione sulle tematiche della casa, quale diritto di tutti, il mio futuro sindaco dovrà affrontarla, perché la lista d'attesa è molto lunga e perché la perdita di una casa, gli sfratti sono quotidiani e le minacce sono continue, le minacce di sfratto, aumenta fortemente la possibilità di disgregazione per le famiglie e di creare persone senza fissa dimora. Occorre poi pensare a un abitare che dia centralità ai legami sociali. Ci sono luoghi a Como dove ci sono tante difficoltà insieme, anziani, situazioni impegnative, stranieri, situazioni messe lì abbandonate, situazioni che creano disagio al posto di creare socialità come una casa dovrebbe fare. Pensate alle periferie. Occorre forse pensare e riflettere su figure di portierato sociale, ad animatori di quartiere, a condomini solidali. Occorre nelle periferie creare luoghi di eventi per far vivere quelle zone. Pensate a quanti angoli a città, magari piene di anziani e di altre persone, quest'estate, senza nessun evento organizzato, così lasciati un po' soli e abbandonati, senza riferimento, col bus che se perdono l'ultimo, che di solito è presto, non possono più nemmeno raggiungere la periferia. Quindi una città colorata e non grigia, una città intera e non ossessionata dal centro. Como delle disabilità, mi sembra che la ragazza che mi ha preceduto prima abbia detto tutto e meriti veramente il nostro applauso per il suo coraggio che porta avanti continuamente. Quindi concludo invitando il futuro sindaco a prestare attenzione anche a uno dei luoghi più lontani e abbandonati di questa città. Parlo del carcere del Bassone e delle persone lì recluse. Mi sembra che una città solidale debba essere impegnata a favorire il reinserimento di queste persone. Penso a un impegno verso i familiari delle persone che sono al Bassone, penso a un impegno con borse di lavoro e relative magari a impegni utili alla collettività, a creare luoghi di accoglienza per i primi giorni quando le persone escono, per chi appunto non le ha, magari un kit contenente cose anche pratiche, biglietto bus, buoni pasto e una figura quale il difensore civico per favorire che il periodo in cui una persona trascorre in carcere e i propri diritti non vengano calpestati. Tutto questo e altro ancora per una città e una politica che vive un radicale rinnovamento al servizio degli altri e per i suoi cittadini. Penso che una città sottratta al dominio di pochi, che venga quindi che sia di tutti e che venga restituita finalmente alla simpatia della gente, che ora mi sembra manchi un po'. Grazie. Grazie Luigi Nonessi. Passo la parola a Enzo Righi, che è qua in prima fila. Buonasera a tutti. Siamo qui questa sera per promuovere il progetto di indizione delle primarie. Indizione delle primarie, come è avvenuto a Milano, avviene tra candidati diversi, con programmi diversi, tematiche diverse. Alcune le abbiamo sentite in questi primi interventi. Io ho sentito le linee programmatiche di Luca Michelini, che è stato il primo a candidarsi, e tra i titoli guida c'era Como città dell'acqua pubblica. Volevo puntualizzare, come ho messo sul gruppo Facebook a cui invito tutti ad iscriversi, questo specifico tema, cioè sul gruppo Facebook in giornata di oggi sono maturate due notizie che reputo assolutamente importanti. Allora, primo, l'ANCI nazionale, Associazione dei Comuni Italiani, a cui torto collo appartiene anche il sindaco Bruni o qualunque altro sindaco di qualunque colore, ha sottoscritto un documento con cui si impegna a richiedere l'incostituzionalità della manovra che induce a privatizzare l'acqua. Secondo, un secondo documento che ha, per la verità, ha mandato in giro a diverse mail che quasi tutti voi riceverete, ma ribadisco, di Roberto Fumagalli come coordinatore referendario regionale a titolo di comitato referendum nazionale, in cui si invita a fare una mailing bombing a tutti i deputati della Camera dei Deputati nel corso della seduta in cui verrà riconfermato quanto è già passato al Senato, cioè che sputando in faccia al 54% dei cittadini italiani che hanno votato il referendum contro la privatizzazione dell'acqua e dei servizi pubblici, nella manovra sono contenuti specifici capitoli che impongono la privatizzazione dei servizi pubblici, vedi trasporto, acqua, rifiuti e depurazione. Quindi invito tutti a fare questa mail bombing diramata da Roberto Fumagalli e che ho posto sul gruppo Facebook Primaria Como. Terza notizia, anch'essa calda di stasera, da una notizia del Fatto Quotidiano, un tizio consiglia a coloro che fanno business sull'acqua, d'accordo, non, il referendum vieta di fare utili sulla gestione delle reti idriche, pertanto l'escamotage per chi volesse fare ufficialmente utili è semplicemente questo: fare utili sul rifacimento delle strutture. Questo purtroppo i quesiti referendari passati promossi non lo vietano. Di conseguenza qui abbiamo uno specifico caso in città che io cito da diversi mesi, cioè di Como Depur, nell'ambito della ex società patrimoniale Como Acqua, era il cavallo di Troia attraverso cui il capitale privato nel settore della depurazione, che fa parte integrante della rete del servizio idrico integrato, era la, il cavallo di Troia attraverso cui poi si poteva dire, poiché i privati di Como e di altre città fanno bene la depurazione, si suppone che possano farlo anche per le reti idriche, rammentando che ACS Agama Como in realtà è già parecchio privatizzata in una formula di capitale finanziario vicina al 30% del privato. Quindi quasi rasentava il famoso decreto Ronchi che obbligava a privatizzare il 40%. Como Depur, o come meglio si dice Puzza Depur, nel messaggio che ho messo in Facebook stasera si allude proprio a questo, praticamente da tempo programma, non si sa bene quanto concertato con la giunta Bruni, e fingendosi democratico di accettare le istanze del vasto, dei vasti strati di popolazione che vivono nella zona di Viale Innocenzo, via eccetera, che ha appunto istituito il comitato Puzza Depur. Quindi finge di accogliere queste istanze, progettando di spostare l'impianto poco a monte della stazione di Como San Giovanni. Il tutto con ovviamente spese enormi di investimento. Questo è appunto il capitolo citato a livello nazionale dal Fatto Quotidiano, che dice: alcuni lestofanti di vari colori politici si prestano a fare operazioni di questo tipo, cioè praticamente non potremo fare utili sull'acqua perché ce lo vieta il referendum, non potremo farlo sulla depurazione perché ce lo vieta il referendum, però sui lavori delle strutture e di ristrutturazione delle stesse faremo utili a palate. E quindi, fatto il referendum, indovinato l'escamotage. Per cui io so che mi è stato detto che Luca Michelini su questi temi ci sta in maniera radicale. La mano sul fuoco sugli altri candidati che girano non ce la metto. Di conseguenza, invito appunto a partecipare alle primarie e a stare su questo tema, cioè il tema siamo per l'acqua pubblica general generico, lo dice anche San Francesco, lo dice anche il Vaticano, lo dicono così. Allora, siamo per ripubblicizzare Como Depur, ripubblicizzare ACS Agam per quanto attiene alla rete idrica Comasca, Brunate e Cernobbio, che appunto è privatizzata, e dopodiché chi sta in questo settore io mi impegno a fargli la campagna elettorale nell'ambito delle primarie, altri che non sono così chiari e trasparenti assolutamente no. Grazie Enzo Righi, è stato chiarissimo su questo tema. Invito tutti a stare comunque in tempi abbastanza ristretti, anche perché a un certo punto chiuderemo e non andremo a strascico un po' come è successo un po' anche nelle altre assemblee, ma starò rigidissimo verso alle 11 cerchiamo di chiudere. Il maestro si è affacciato, volevo fare un ultimo intervento prima del pezzo di chitarra, se non si offende, e volevo parlare un po' di cultura, mi sembra, invitando Salvatore Amura, che è anche un compagno di viaggio del percorso di Primaria Vere per Como. Grazie Salvatore. Buonasera a tutti, grazie. Ma credo che intanto parlare di cultura in questo momento, in questo paese, è veramente un'operazione complicata. Cultura, la cultura della legalità, la cultura della partecipazione, la cultura del coinvolgimento dei cittadini, sembrano tutte parole che purtroppo sembrano perse, di cui si è perso il significato. Questo è un paese che aveva investito molto nella cultura, che nel patrimonio, nei beni, nel bene paesaggistico, ambientale, monumentale, di questo bene dovrebbe farne una valorizzazione straordinaria. Purtroppo non è così. Questo è un paese che negli ultimi 10 anni ha perso 110.000 studenti universitari. 10 anni fa ne avevamo 330.000, oggi ne abbiamo 220.000. siamo ancora convinti che il Made in Italy, la cultura italiana, sia ancora un qualcosa che è riconosciuta in tutto il mondo. Purtroppo non è così. Basta parlare con tutti gli operatori internazionali, andare all'estero, dalla formazione, il design, la moda. Oggi si va ad Anversa, si va a Londra, si va a Pechino e si va a New York, purtroppo non si viene più a studiare il Made in Italy. Il Made in Italy nel design, tutte le più grandi aziende del design non sono più italiane, sono tutte di proprietà che non stanno più nel nostro paese. Quasi tutte le grandi aziende della moda non sono più italiane. Siamo a Como e il tema e la storia del tessuto e delle setterie comasche sono, penso, una cosa che tutti conosciamo rispetto a quanto si è perso di questo patrimonio. Questo purtroppo è il triste punto di partenza da cui bisogna partire. Però abbiamo anche la voglia, credo, la necessità e l'impegno per riproporre questo che deve essere un meccanismo nuovo e che affronti la cultura come centralità. E credo che se ne sono sentite anche in questi giorni, se ne sentiranno nelle prossime settimane, bisogna riacquisire la fiducia nella cultura della partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni. Io non credo che ci potrà essere una strada diversa per riprovare a mettere in sintonia chi si assume un ruolo pubblico e chi appunto si assume un ruolo pubblico attraverso quella che è la responsabilità del governare e quelli che poi saranno gli interessi, cioè gli interessi dei cittadini a cui si farà riferimento. Come ben sapete, parlare di cultura, soprattutto a Como, vuol dire in realtà parlare con ogni probabilità con quello che sarà uno dei papabili candidati sindaci del centrodestra, cioè l'assessore attuale Sergio Gaddi, che so che, e sono convinto che anche in questa sala, insomma, in questo luogo, raccoglie alcune simpatie, proprio perché, insomma, ha utilizzato il meccanismo della cultura con questa proposizione dei grandi eventi, insomma delle grandi iniziative, che a mio modesto parere è qualcosa di lontano in realtà da quello che vuol dire costruire un vero processo culturale che rende protagonisti interessati i cittadini a quella che è la cultura. L'Arci, per esempio, insieme al gruppo Primario per Como, che hanno pensato questa bella iniziativa, sappiamo che ha alcuni problemi rispetto al Cinema Gloria e non mi sembra che, tranne qualche presenza così abbastanza pirotecnica, poi si sia fatto ben altro. Occorre moltiplicare i luoghi e le occasioni di incontro culturale per scambiare conoscenze, ma anche per produrre novità, ibridando gli apporti diversi, con particolare attenzione ai giovani e alle seconde generazioni che vivono già in una condizione di doppia appartenenza linguistica-culturale. Questo vuol dire cultura. Abbiamo una grande opportunità di rimetterci in sintonia con quelli che sono popoli, tradizioni, conoscenze che vengono da tutto il mondo, e questo invece solitamente viene etichettato solo con quel meccanismo mefitico della paura. Tra altre cose, noi domani come Accademia Galli proponiamo una serie di iniziative a parolario e proponiamo per esempio la presentazione del libro di Aldo Bonomi che tratta proprio appunto questo tema, cioè il tema di riproporre la cultura della rete, la cultura dell'ascolto rispetto a quella che è la cultura del rancore, della paura, dell'odio che ci ha governato in questi 20 anni e che ha combinato degli sfracelli da tutti i punti di vista. Rimettere Como al passo con le altre città d'Europa. Como dovrebbe essere una città d'Europa, a quanto sembra e a quanto ci pare forse Como è oggi una città della Lombardia. Como esige soprattutto nuove forme di gestione e di distribuzione delle risorse pubbliche, su cui oserei dire che ci vorrebbe un po' più di trasparenza, che consentano il pieno dispiegamento d'energia creativa che ribolle nella nostra città, abbandonando ogni forma di gestione clientelare e di privilegi derivanti da rendite di posizione, per promuovere invece un sano e positivo dinamismo competitivo. Per chiudere, qualche proposta che credo che insieme a tante altre che in questi 6 anni siano state elaborate possono essere messe a servizio. Io auspico, e so che ci sono già in campo alcune autorevoli candidature, e che a queste candidature se ne possano aggiungere delle altre, perché noi non possiamo pensare che i 2000 elettori su tanti elettori di Como possano essere un qualcosa su cui non ci possiamo accontentare. Noi dobbiamo almeno raddoppiare i 2000 elettori, se non molto di più, dobbiamo allargare, dobbiamo includere, dobbiamo avere la capacità di ascoltare. Istituire per cui un assessorato alla cultura, all'integrazione e ai giovani per superare la frammentazione attuale di deleghe e competenze e realizzare un coordinamento efficace e un piano strategico di sviluppo per le attività e le istituzioni culturali e formative della città. C'è un progetto in campo che è il chilometro della cultura, che va da Villa Olmo fino a Villa Sucota, un'operazione straordinaria anche dal punto di vista ambientale, che viene per esempio sponsorizzata da quello che è l'attuale Presidente della Camera di Commercio, a cui io credo noi dobbiamo prestare una certa attenzione senza infrapporre elementi ideologici di contrasto che credono che non serva a nessuno. Realizzare uno sportello pubblico per tutti gli operatori di cultura per facilitare e coordinare l'accesso a tutte le forme di finanziamento pubblico e privato. Creare in collaborazione con gli istituti bancari della città un fondo di garanzia per l'accesso al credito di istituzioni e associazioni culturali. Aiutare e sostenere teatri e centri di cultura nei processi di messa a norma e soluzioni di problemi logistici purtroppo a tuttora irrisolti. Rispondere positivamente alla forte domanda di luoghi da destinare alle attività culturali e creative, privilegiando il variegato mondo della produzione e della diffusione artistica e culturale negli assegnazioni di spazio del demanio comunale. Capitolo demanio comunale. Sul tema del demanio comunale mi sembra che lo sguardo agli interessi speculativi e privatistici sia stato un po' il segno dominante di questa città. L'invito che faccio ai candidati è su questo: dare un segno tangibile. Parliamo sì di questioni urbanistiche, di grandi scenari, ma parliamo anche di quella che è la quotidianità degli spazi del demanio comunale, dove mi sembra anche che rispetto alle discussioni che si sono fatte nelle ultime settimane ci sia un arretramento evidente. Infine, facilitare e incentivare l'accessibilità di iniziative culturali, promuovendo il patrimonio artistico e la produzione culturale cittadina attraverso i tanti canali promozionali di proprietà del comune, per cui di proprietà di tutti noi, presenti sul territorio, con particolare attenzione alla rete dei trasporti, dove coinvolgere tutte le istituzioni cittadine in una politica dei prezzi d'ingresso adeguata a includere anche le fasce sociali più disagiate. Permettetemi di chiudere, e credo che sia doveroso da questa piazza, con un qualcosa che dovrebbe accomunare prima di noi, mi pare che il signor Nessi precedentemente l'abbia fatto, cioè quella che dovrebbe essere la cultura della pace. In uno stridente, assurdo, inconcepibile e inaccettabile silenzio, ancora una volta, un operatore di emergency, Francesco Azzarà, è nel silenzio più totale e nel dimenticatoio più totale delle istituzioni italiane, in particolar modo del governo e del Ministero degli Esteri. Di Francesco non si sa più niente. Mi piacerebbe che da questa piazza venisse un forte applauso e una richiesta forte anche all'amministrazione di Como che possa far qualcosa per questo nostro fratello. Grazie Salvatore. Adesso inviterei invece il maestro Laura, che è il mio maestro, ex maestro, a suonarci il Capriccio Arabe di Francisco Tarraga. Stasera dei lapsus sui brani che il maestro non mi perdonerà. Buon ascolto. Ha già superato tutti gli esami. Luca. A integrazione dell'intervento precedente, vuol far presente che proprio ieri Stefano Bollani, il grande pianista jazz, ha fatto un intervento in favore di Azzarà. Infatti anch'io ignoravo, ha ragione a dire che è abbastanza ignorato questo triste momento, fatto. E quindi, però Stefano Bollani si è mosso, ha usato se stesso e questo l'ho apprezzato. Basta. Bella categoria musicista. Il brano... Il compositore è Francisco Tarraga, che ai più sembra sconosciuto, eppure è l'autore più ascoltato. L'ho sentito prima, tra un intervento e l'altro, c'è stato un telefonino e ha fatto un intervento, forse cambio pezzo un attimo. Sempre da Francisco Tarraga, il medesimo compositore, il Grand Vals. Inizia così. Adesso. Ah, è la Nokia. Furbata ma intelligente di Nokia di usare un autore morto 102 anni fa, in conseguenza non sono diritti d'autore. Del medesimo autore che è morto poverissimo, mi dispiace, nel 1909. Nel 1988 scrisse questo Capriccio Arabe che è una serenata. Thank you. Grazie mille, maestro. E dopo Capriccio Arabe passo la parola al presidente dell'ACLI di Como, Luisa Seveso. La ringrazio per essere intervenuta. Perdonatemi, ma io non ho fatto in tempo a scrivere niente. Vado un po' a braccio a raccontare un po' quelli che sono i miei pensieri e che sono la quotidianità della mia vita, l'incontro con le persone e l'ascolto delle persone. Ecco, io chiederei al candidato sindaco di questa città prima di tutto di ascoltare, di essere di nuovo capace di ascoltare la voce dei cittadini e delle cittadine di questa città, perché essere al servizio di una comunità significa innanzitutto ascoltarla, e la mia sensazione è che in questi ultimi anni i cittadini di Como siano stati perlomeno non sono stati ascoltati tutti, anche perché la politica prima di tutto quando deve cercare di migliorare la qualità della vita deve partire dalle piccole cose, perché la nostra vita, il nostro benessere, il nostro stare bene in questa società non sempre si basa su questioni enormi e grandissime, ma sulla quotidianità di ogni giorno, quindi dai servizi dignitosi, innanzitutto i diritti essenziali per tutti che questa città non garantisce: una casa, del cibo e un lavoro. È vero che il lavoro è un problema grandissimo oggi come oggi, non dipende solo dal cittadino di questa città e a chi governerà questa città risolvere il gravissimo problema del lavoro. Non aggiungo nulla a quello che ha detto Luigi Nessi prima rispetto a quelle che sono le difficoltà delle persone che stanno più in basso nella piramide sociale, mentre una società che si definisce civile deve avere innanzitutto cura delle persone che stanno peggio e poi ovviamente pensare ad una qualità della vita adeguata. Ecco, se le mense dei poveri sono piene e se non tutti hanno un tetto dove stare, dobbiamo interrogarci tutti con l'attenzione a fare in modo che le persone gli interventi possano essere dati nella maniera più promozionale possibile. Il problema della casa è un problema grande, tante persone non ce l'hanno la casa, ma tante persone non sono in grado di pagare gli affitti esosi che vengono richiesti oggi. Probabilmente hanno bisogno di housing sociale, hanno bisogno di avere delle case a prezzi compatibili con le loro tasche. Qualche volta serve magari anche un andare incontro alla persona che può offrire una casa che magari si sente magari non garantita da quell'inquilino. L'ente pubblico deve cercare di fare in modo di fare da garante rispetto a queste cose, in modo che le case non rimangano vuote ma siano date alle persone. Sono stati chiusi degli asili nido e io come cittadina di questa città e come mamma che ha vissuto in prima persona le difficoltà comunque di far coincidere la vita lavorativa con la vita familiare, credo che sia comunque oggi una priorità, perché si va in pensione sempre più tardi, quindi i nonni saranno sempre di meno per guardare i nipotini e non tutti ce li hanno i nonni, non tutti hanno la fortuna di averceli. Magari per i nonni che possono è anche una cosa piacevole, ma ci sono anche tante donne sole ed è una cosa troppo pesante per dire che non ci si pensa fino in fondo a trovare una soluzione. E poi gli spazi per i giovani. I giovani sono, lo diciamo sempre, ma non facciamo a sufficienza perché questo avvenga, sono il futuro. Ma dove si trovano i giovani in questa città? Quali sono gli spazi dove i giovani si possono trovare? E nonostante tutto i giovani di oggi sono come eravamo noi da giovani, hanno bisogno di stare insieme, hanno bisogno di socialità, hanno bisogno di crescere, hanno bisogno di incontrarsi, hanno bisogno di avere luoghi dove possano parlarsi, magari evitando di mandarsi 150 messaggini al giorno, ma avere proprio interlocuzione fra di loro. E io non ne vedo molti di spazi per i giovani in questa città. Per quanto riguarda gli anziani invece gli anziani sono molto soli e ci sarebbe la possibilità di poterli far incontrare? Io credo di sì, perché ci saranno gli anziani che sono in difficoltà, che sono ammalati, che non possono muoversi, ma ce ne sono anche tanti che sono soprattutto soli, che vivono di solitudine e che potrebbero ancora dare tanto a questa comunità, ma si tratta di metterli insieme, di fare in modo anche qui che si crei quella socialità che fa la differenza, che ci sia una solidarietà reciproca e non può essere lasciato solo alle associazioni di volontariato. La comunità deve fare in modo di mettere insieme i propri pezzi. Ecco, credo che proprio manchi quell'idea, quella idea di comunità solidale, quell'idea di comunità che accoglie, quell'idea di comunità che si dà da fare, che viene incontro rispetto ai bisogni. E io chiederei davvero al prossimo sindaco di fare in modo di mettere insieme questa comunità, perché una comunità è sicura quando reciprocamente si cura, si prende cura l'una dell'altra, e una comunità sicura è la miglior garanzia. Abbiamo sempre davanti agli occhi questo spauracchio della sicurezza, ma la sicurezza si combatte soltanto, la sicurezza si affronta e si risolve soltanto se la città è viva. Se mi capita di camminare per la città di sera al buio e non c'è nessuno, mi sento insicura anch'io, anche se non c'è, nessun pericolo. Mentre se una città è viva, la città viva che vive la propria città dà anche maggiore sicurezza a tutti gli abitanti di questa città. E non è chiudendosi che si risolvono i problemi, ma è soltanto prendersi all'altro, prendendosi cura anche del proprio territorio. Le periferie, si diceva prima, le periferie in cui magari qualche spazietto ci può anche essere, ma magari è uno spazio non curato, uno spazio abbandonato, uno spazio che viene lasciato a se stesso, e anche questo, insieme a quelli che sono gli indispensabili servizi per le persone, è un'altra cosa che il nostro territorio in questi ultimi anni non ha fatto. E stavo pensando anche al ritorno al problema del lavoro, perché per un'organizzazione come le ACLI, che mette il lavoro al centro della vita delle persone, proprio il lavoro come promozione della vita di ognuno, come diritto di cittadinanza, e trovarci in una situazione come questa, dove ancora una volta pagano sempre più deboli le donne e i giovani, ma a queste categorie si aggiungono sempre di più quelli che sono nella fascia intermedia, nella fascia in cui non sono più giovani ma non sono ancora vicini alla pensione, anche perché la pensione ormai sta diventando un miraggio per tutti noi. Ecco, non lo so, mi viene da dire, io sono sempre stata una molto favorevole ai contratti di solidarietà, perché è giusto che di quel poco che c'è si possa beneficiarne tutti, e quindi lavorare insieme affinché si possa per più persone possibili trovare soluzioni. Quello del lavorare insieme è un'altra delle priorità che io ritengo, perché quando le risorse sono poche è indispensabile utilizzarle al meglio, e se non c'è coordinamento fra i vari pezzi che si occupano di servizi, le risorse non si utilizzano bene. È un'altra delle carenze che io vedo in questi ultimi anni, è proprio il non coordinamento delle risorse, avere dei luoghi nei quali quelli che sono anche le... Prima è stata citata la Caritas, certo, magari anche sapere esattamente che cosa succede, quali sono le persone che si rivolgono, per fare in modo di poter dare un servizio completo e utile a tutti, senza disperdere energie economiche e anche energie umane, perché quando una persona ha bisogno gira tutto il mondo e chiaramente uno non sa quello che ha fatto l'altro e non sa esattamente che cosa è meglio fare per questa persona. Ritornando alla mia frase iniziale, quello dell'ascolto, questo ascolto è un ascolto che deve essere attivo, che deve trovare modo di coinvolgere i cittadini, che li faccia sentire attori della propria vita, che li faccia... Leggevo una volta di un comune che ha istituito l'assessorato delle piccole cose, in cui i cittadini si potevano rivolgere perché il lampione della periferia era spento da 3 giorni, piuttosto perché avevano visto che c'era un terrapieno che si stava... Ecco, questo io credo che sia una cosa per dare voce alle persone che vogliono mettersi a disposizione della città, non dimenticandoci che un sindaco è innanzitutto al servizio della propria città, e qualche volta magari viene anche dimenticato. Rispetto al discorso dell'ascolto, vi faccio un esempio che per me è stato illuminante. 13 anni fa, quando sono stati tagliati gli alberi che c'erano su Viale Geno, perché erano malati, perché dovevano essere estirpati, mi ricordo esattamente il periodo perché era quando è nata la mia ultima figlia, e quindi avevo più tempo per godermi la città, e ho visto che avevano piantato queste piante piccoline che stavano crescendo e che non crescevano bene. L'anno dopo ho visto che le piante, buona parte, erano morte e le altre non crescevano bene. Mi è capitato di incontrare una persona che è nato a Sant'Agostino e ci ha sempre vissuto, e gli dicevo: perché queste piante non vengono su? E lui mi ha detto: Otusa, quel viale qui è stato costruito sulle macerie della guerra, sotto non c'è terra, se non hanno fatto un bel lavoro per piantare le piante non cresceranno mai, non sono ancora cresciute adesso. Probabilmente se avessero ascoltato questo cittadino, queste piante sarebbero molto più rigogliose. Ringrazio Luisa Seveso. Qualcuno mi faceva notare, se ce ne fosse bisogno, che stanno spuntando tantissime idee anche per un eventuale programma di un candidato, quando lo trovassimo, anche un candidato che possa portare avanti tutte queste cose. E dato che c'è Raffaele che sta facendo questo lavoro di ripresa degli interventi, poi si cercherà, oltre a tutti quelli che vogliono dare una mano per il percorso delle primarie vere per Como, anche uno sbobinatore magari di quello che è il video, magari per anche riprenderlo in un testo. Per avviarci verso la conclusione, io avrei in scaletta Danilo Lilia, Giulia Parini, ci sono tutte e due? Sì, Danilo l'ho visto. Poi se mi lasciate un 5 minuti io avrei anche la mia lettera, e dopodiché concluderei con un po' di poesia, a meno che qualcuno non si faccia vivo adesso, se no questa sarebbe un po' la mia idea per finire la serata. Quindi invito Danilo Lilia a intervenire, e ci tengo a dire comunque che Danilo Lilia è un po', diciamo, l'anima di quello che è, di questo gruppo, di questo movimento che è nato da iniziativa. Questa non era prevista. Grazie. Beh, io ho fatto una cosa più semplice di tanti altri, no? Perché diciamo, sembrava una cosa semplice scrivere una lettera al futuro candidato sindaco, i pensieri ne corrono tantissimi, ma volendo e dovendo scegliere un tema, un argomento che mi sta particolarmente a cuore, ho pensato di fare un'unica richiesta relativa al modo di amministrare, no? Non voglio chiedere una cosa specifica, ma una relazione, un rapporto credibile e sicuro. Questo forse deriva anche da una mia precedente esperienza di amministratore, anche se di un comune più piccolo di quello del comune di Como, un'esperienza che era stata per me sicuramente positiva, che mi aveva fatto crescere, ma che era rimasta parzialmente incompiuta. Incompiuta per insufficienza forse anche della mia preparazione e di quello che avrei voluto fare, interruzione poi per altri motivi, nella relazione con la cittadinanza, che poi dopo ho sviluppato successivamente. Oggi le problematiche sono diventate sicuramente ancora molto più complesse, e credo che occorra sperimentare una nuova cultura politica dell'amministrazione che si basi sull'inclusione e sulla partecipazione. La classe politica, la classe dirigente di una comune deve rendersi consapevole dell'importanza e di una necessità di un'impostazione alternativa nell'azione amministrativa, e questa si deve manifestare fin nella stesura del programma elettorale, che quindi inviterei quando verrà fatto, un programma che sappia coinvolgere donne e uomini, e giovani e meno giovani. Quindi una cultura della partecipazione. Vorrei, alcune amministrazioni comunali hanno iniziato questo approccio e ogni tanto in qualche mio intervento quando parlo di questi temi lo presento. Io oggi nel ragionare ho voluto scegliere questo modo mio di fare una lettera. Una partecipazione che si basa sul coinvolgimento dei bambini nelle scuole. Prima ho sentito un intervento sui bambini, ho detto mi hanno anticipati. I bambini sono irrappresentabili e attraverso le consuete modalità della delega politica rimangono irrappresentati. I bambini hanno un modo di vedere distinto da quello degli adulti. L'uso dei luoghi e in generale l'utilizzo e il consumo delle cose da parte dei bambini è profondamente diverso da quello degli adulti. Il territorio dei bambini non è lo stesso territorio praticato e pensato dagli adulti. Le paure ambientali e il senso di pericolo dei bambini sono diversi da quello degli adulti. I bambini hanno un sentimento dei luoghi diverso da quello degli adulti. Il peso dei bambini nei processi decisionali è del tutto trascurabile nelle regole sociali vigenti nel mondo degli adulti. La responsabilità democratica dei bambini è diversa da quella degli adulti. I bambini sono esclusi, di norma, dalla vita amministrativa e politica. La loro cittadinanza è differita come quella degli stranieri o è diminuita come quella delle figure marginali della città. Lo sguardo delle bambine e dei bambini è un altro sguardo, uno sguardo non inferiore e diminuito, neppure uno sguardo più penetrante e sicuro di quello degli adulti. È uno sguardo diverso, profilato, differente, uno sguardo basso vicino alle cose. Il coinvolgimento dei bambini nelle esperienze di progettazione partecipata è essenziale, perché aggiunge alla molteplicità degli interessi e dei punti di vista che sono caratteristici di ogni laboratorio, una specifica visione del mondo e delle cose. Lo sguardo dei bambini sulla città è uno sguardo corporeo, legato alla terra, concreto, è uno sguardo naturalmente ecologico, orientato al benessere ambientale, è uno sguardo meno viziato da pregiudizi, da interessi mediocri, da aspettative economiche e di profitto. E infine uno sguardo immaginoso, desiderante, aperto al futuro, alla sperimentazione, all'innovazione. È possibile forse dire che un laboratorio di progettazione partecipata senza il contributo determinante dei bambini è un laboratorio difettivo alla radice, monco, incompleto, meno ricco di energia e di speranza. Questa esperienza è nata nelle scuole fiorentine alcuni anni fa, ma è anche l'esperienza di altre forme di partecipazione in altre scuole, come ad esempio quella di Pieve Emanuele, che è partita da un'esperienza proprio all'interno della scuola. E hanno attivato cantieri di trasformazione, luoghi della collaborazione e della interazione costruttiva, e attraverso tutti questi cantieri, tassello per tassello, cittadini di ogni età, di ogni cultura, costruiscono il futuro. Concludo, caro futuro sindaco, con un auspicio, che tu sappia immaginare la futura amministrazione di questa città attraverso gli occhi dei bambini. Scusatemi, volevo fare a parte un'altra cosa. L'altro giorno mi hanno regalato un bellissimo libro, Il sindaco pescatore, ricordo di Dario Vassallo, e questo è diretto ancora agli amministratori, no? E un anno fa l'hanno ucciso, poco più di un anno fa. E volevo soltanto, non è retorica, noi l'abbiamo ricordato con una manifestazione, però credo che purtroppo bisogna sempre ricordarlo e ricordare tutti coloro che come lui hanno dato la vita per un'attività amministrativa. E volevo ricordarlo con pochissime righe. Dice: abbiamo trascorso sempre troppe poche ore insieme, questo è il figlio. Poche parole come al solito, poche parole e ancora meno tempo. La tua vita era dedicata agli altri, poi venivamo noi, la famiglia, alla quale non hai mai fatto mancare niente se non la presenza fisica. Il lavoro, l'amministrazione pubblica, i problemi e le esigenze della gente, le soluzioni che dovevi trovare come sempre trovavi, non staccavi mai. La notte pensavi a quello che avresti fatto il giorno dopo e il giorno dopo eri immerso nel ruolo di sindaco. Questo penso che sia un insegnamento anche ai futuri amministratori della città di Torino. Grazie Danilo. Giulia Parini, poi io, poi un po' di poesia e chiudiamo. Che molto strano per me parlare di una città che abbandono. Chi da Milano è venuto qui, io ritorno alla grande città, ma mi preservo ancora un piacere, che è quello di, con tutti voi, costruire qualcosa di diverso per questa città. Per cui, come sono andata a Milano a lavorare ai comitati Pisapia perché la mia futura città fosse governata in maniera per me piacevole, spero di aiutarvi in questo. Quello che io chiederai a un sindaco è di saper amministrare la città e di saper fare i conti con tutto, i desideri, le cose possibili e impossibili. Quello che io chiedo a un sindaco è che trasferisca nei suoi cittadini l'amore per la città, perché questa è una città che non è più amata, non è più amata né dai suoi amministratori né dai suoi cittadini, ed è questo il punto centrale. Questa è una città in cui non vigono più regole, e vorrei toccare un punto che so molto molto impopolare: la famosa ordinanza sulla chiusura a mezzanotte dei bar della città murata. Voi avete di fronte a me una che l'ha appoggiata in pieno, questa ordinanza. Non perché io ami una città immobile, ma io amo una città che rispetti anche le regole e che insegni ai giovani che ci sono delle regole da rispettare. Allora, la tutela alla salute è fondamentale ed è uno dei principali compiti che ha un amministratore: tutelare la salute dei propri cittadini. La salute dei propri cittadini si tutela contro l'inquinamento ambientale, acustico e luminoso. Questa è una città che ha un piano acustico che ti dice che dopo una certa ora non si possono superare determinati decibel. Ma questo ve lo dico non perché siete tutti bacchettoni all'interno della città murata, e che hai bisogno di vivere e di poter vivere nella tua casa e di essere libera, di poter ascoltare musica, di poter chiacchierare con i tuoi figli, cosa che a noi per molto tempo è stata impossibile. Ma perché vi dico che è una questione di regole? Perché se noi non facciamo rispettare le regole a dei baristi che, pur di guadagnare due soldi, serve ai nostri figli minorenni degli intrugli pericolosissimi che li renderà malati di cirrosi epatica da qui a poco, non abbiamo, cioè la città muore, perché gli spazi per i giovani non sono l'abbruttimento al bar, ma sono riaprire il Politeama, aprire dei luoghi, fare musica. Ad esempio, una serata qui con lui che suona è una serata che per le nostre orecchie è meravigliosa, e noi abbiamo avuto qualcosa e abbiamo altro da dare, cioè tornare a casa e dire: io ho vissuto la città nella sua interezza. Ecco, secondo me quello che manca a Como è un amore per la città e per le regole di vita della città. Prima dicevo al mio vicino di sedia, quando è partita una moto da qui, in città murata le moto non potrebbero andare. Qui si è perso proprio il senso del rispetto uno dell'altro. Aneddoto: l'assessore alla cultura Gabbi viaggia regolarmente per la città murata in moto e contromano. Allora, questo personaggio dai nostri giovani in questo momento è idolatrato, perché li ha difesi a spada tratta, ma è una persona senza regole. Io vorrei che la prossima amministrazione sia un'amministrazione con delle regole precise di trasparenza, che non è solo trasparenza dei bilanci, ma è trasparenza dei comportamenti. Altra cosa, siamo tutti noi, il sindaco è qualcuno che ci rappresenta, ma dobbiamo iniziare noi a chiedere quanto costano alcune manifestazioni in questa città e quanto veramente sia tornato in città. Io ci credo molto al chilometro della cultura, da Villa Olmo a Villa Sucota, ma qui la Pinacoteca, il museo, quello che c'è attorno viene completamente tagliato fuori. La città murata è diventato un luogo dove si vendono mutande, vissuto da molti anziani, perché non dimenticatevi che la città murata non è vissuta da ricchi, è vissuta da anziani che non hanno più il supermercatino, che non hanno più luogo dove fare la spesa. Io vorrei che si ritornasse ad amare la città chiedendo non solo luoghi dove poter ascoltare la musica, per me è fondamentale nella mia vita. Ho lavorato nella musica tantissimi anni, ma vorrei un luogo dove poter chiacchierare serenamente, senza essere stravolta dai rumori, dalla maleducazione, che questo è quello che in questa città, in questi anni è passato. Vi lascio con un aneddoto per dire quanto veramente noi dobbiamo dire ai nostri concittadini: aiutateci e amate questa città insieme a noi. Via Vittorio Emanuele, mamma con bambino dentro il carrozzino, cioè dentro il passeggino, gelato, questi bambini che vengono tenuti nei carrozzini a 4-5 anni, che veramente potrebbero camminare perché hanno la fortuna di poterlo fare, butta la carta per terra. Una mia amica la ferma e dice: al bambino è caduta la carta per terra. E questa signora ha detto: la vedi? Guarda bene in faccia questa signora, è una rompicoglioni. Allora, capite che noi possiamo chiedere al sindaco anche la luna, e perché rispetti tutto quello che voi avete chiesto, in questa situazione deve avere anche la bacchetta magica. Ma se iniziamo noi a dire a quella signora: guardi che la coglione è lei, non se ne esce. Quando ci fu la protesta del muro, io suggerì un manifesto di questo tipo: li avete votati? Attaccatevi al muro, perché quel muro è venuto su nonostante tutti dicessero che non servivano quelle paratie, che era un disastro. E io mi spiace anche della terrorista, devo dire, per averlo urlato, ma forse bisogna imparare noi e dire agli altri che il voto è un'azione e dall'azione viene una conseguenza. Per cui, se si vuole amare questa città, bisogna convincere non noi che siamo già convinti e che avremo i nostri candidati alle primarie e che già lì ci misureremo, ma bisogna convincere quelli attorno a noi che forse conviene iniziare a vedere la città in maniera diversa. E io al sindaco chiedo amore per questa città. Grazie. Caro candidato sindaco, è bello pensare che a livello cittadino possiamo iniziare un percorso politico che parta da un progetto per la città e da un gruppo di persone che vi si possa riconoscere, non cominciando questo percorso in affanno alla ricerca di alleanze e accordi tra i partiti. È positivo constatare che non ti interessa nascondere te stesso indossando un cappello di un partito all'ultimo minuto, cercando di guadagnare consensi da parte di un gruppo di elettori e perdendoli così dall'altra parte, ma soprattutto, ben più gravemente, rischiando di non riconoscere più te stesso. È altrettanto importante, infine, che tu non abbia interessi economici o affaristici da proteggere o da ottenere durante questo percorso. Tante persone con cui ho parlato in questi giorni non riescono ad avere entusiasmo vedendo affacciarsi sul palcoscenico delle primarie della mia città politici che hanno già subito in passato pesanti sconfitte. C'è bisogno di persone capaci di interpretare un cambiamento. Il cambiamento, in questo momento storico, che ha competenza, passione, capacità di ascoltare le idee degli altri e di comunicare le proprie, ma soprattutto una forte base valoriale, non può stare in un angolo e fare la stampella ad un altro candidato. Chi ha queste capacità deve mettersi in gioco e cercare di dare una risposta all'indignazione sempre più forte che esprime la gente comune. Indignazione. Quanti momenti di indignazione abbiamo vissuto in questi tempi? giovani di grande talento assunti con contratti a tempo determinato, insegnanti impiegati come dipendenti a tutti gli effetti presso le scuole private, non solo non assunti, ma trattati in maniera fittizia come consulenti a partita IVA, che si sentono dire dai datori di lavoro che se non va bene così la porta è quella, dietro di te c'è la fila. Dal lato opposto, politici senza alcuna competenza specifica nominati amministratori di società pubbliche, politici con doppi, tripli, quadrupli incarichi, tutti sapientemente nascosti da quella che un ministro incompetente ha battezzato operazione trasparenza. Sono veramente stanco che gli enti pubblici siano il parcheggio personale di politici trombati, mentre ci sono centinaia di giovani preparatissimi esclusi dal mondo del lavoro. Come mi piacerebbe, candidato sindaco, nel caso tu ne avessi la possibilità, di vederti rinunciare al tuo stipendio da sindaco. Sicuramente dovrai dare segnali forti, ridurre uno stipendio da 300.000 euro annuali a un segretario comunale e portare vera trasparenza al sistema delle nomine negli enti pubblici, degli appalti, degli incarichi professionali. A proposito di indignazione, la scena per noi, per molti di noi più forte, che abbiamo ancora impressa nella mente, è quella del sindaco che rideva alla finestra del municipio, accanto ai suoi più stretti collaboratori assessori, guardando sfilare in strada una civilissima manifestazione di persone, indignate per la riduzione in fin di vita di un giovane di 19 anni, Rumesh. Uno dei giovani contro i quali il comune di Como aveva destinato una sproporzionata e incredibile battaglia di vigili armati. Una battaglia che per la cronaca non è servita a niente. L'indignazione per aver dato il via a un progetto inutile, dannoso per la città e per l'ambiente come quello delle paratie. L'indignazione più generale per non aver mai ascoltato le voci di chi per la città si è preoccupato e occupato all'opposizione. Sì, caro candidato sindaco, la nostra sarà ribattezzata da molti come la generazione degli indignados. Un movimento che ha preso forza nelle spiazze spagnole, ma che si è manifestato in maniera diversa già in Grecia e con forti degenerazioni violente a Londra. Ma indignarsi non basta. Qualcuno ha definito indignados inconcludenti. Il fatto è che gli indignati lo sono perché spesso non sono responsabili di tutti questi problemi e delle ingiustizie sociali che hanno portato a questa crisi di valori, economica, finanziaria. Ma non dobbiamo nasconderci dietro questo alibi e non essere arrabbiati basta. Mi basterebbe vedere anche qui nella mia città, dove nessuno crede che si possano cambiare le cose, una speranza di cambiamento e tutta la rabbia si trasformerebbe in entusiasmo. Ti ricordi, candidato sindaco o sindaca, i sorrisi di Milano dopo la vittoria di Pisapia? La gente deve capire che il ricambio nella politica è una cosa sana e necessaria, dappertutto, a destra e a sinistra, perché non si creino radici nei poteri mostruosi e antidemocratici. Sono passati solo 2 mesi da quando mi sono impegnato con un gruppo di persone nella discussione politica per Como. Era tanto che non facevo politica attiva, in sostanza dagli anni del liceo, e ho riconosciuto subito il bello e il brutto che contiene la politica. Ma il fatto di parlare con passione fino a tardi dei problemi della città e cercare insieme una soluzione per come risolverli, come stasera, trovare l'amicizia in questa passione. Abbiamo bisogno di un candidato come te, abbiamo bisogno di una guida. Devi vincere le primarie ed essere capace di organizzare una sintesi della coalizione e guidare la città verso il futuro, senza paura. Viviamo in una città bellissima. Dietro quel muro, da incubo, c'è un lago bellissimo. In quest'epoca della globalizzazione, in cui tutte le città tendono a somigliarsi, Como ha degli elementi distintivi che costituiscono un patrimonio inestimabile. Ma Como è anche una città molto pigra. Se c'è una cosa che ho capito di Como è che da molto tempo sta vivendo di rendita, ma in questo modo rischia inevitabilmente di spegnersi lentamente. Dobbiamo progettare operazioni coraggiose per mettere al primo posto la qualità della vita, la cultura, ma anche operazioni di buon governo per rendere la città più vivibile, dalle buche alla strada all'assistenza agli anziani. Dovremo aprire gli occhi alla gente e sensibilizzarla perché apra gli occhi anche di fronte all'utilità di progetti immobiliari disastrosi e poi falliti, come quello previsto per il recupero della Ticosa. Dovrai resistere, candidato sindaco, di fronte alle pressioni degli immobiliaristi e puntare su una vera riqualificazione dell'esistente. Per fare tutto questo e molto altro dovrai ascoltare la città. Caro candidato sindaco, ho visto cosa è successo in tante altre città. Dalle città di tutta Italia, anche in alcune realtà ancora più difficili di Como, è arrivato un segnale di rottura. Il voto della gente ha smentito il luogo comune, secondo il quale le elezioni si vincono con strategie o pianificando a tavolino le alleanze. Più semplicemente, per battere gli avversari servono le persone giuste, scelte in modo trasparente e democratico. Preoccuparsi di conquistare gli elettori con programmi precisi e credibili è la cosa più importante. I partiti sono strutture fondamentali, oggi forse sono un po' poco rappresentativi della gente, anche grazie alla legge elettorale che ora forse possiamo abolire, guarda caso, sempre con una spinta dal basso, con un referendum. Caro candidato sindaco, parla alla gente, ascoltala. Fa sì che la tua candidatura sia percepita come una candidatura proposta dal basso e non imposta dall'alto. Coinvolgere la società civile sarà la tua sfida più grande e la chiave del tuo e del nostro successo alle primarie e poi alle amministrative. In cuor mio voglio continuare a sperare che rispetto agli accordi con i poteri forti per te saranno più importanti le lettere e le parole che hai ascoltato stasera, le lettere e le parole che ti rivolgeranno le persone comuni che incontrerai in questo percorso. Se agirai in questo modo non sarai mai solo. Penso che la poesia che ho scelto è in perfetto accordo con quello che ha detto Luca, che avete detto tutti voi, ed è una poesia di Bertolt Brecht dal titolo Davvero vivo in tempi bui, ed è tratta dalle poesie di Svetborger. La troviamo anche nell'opera Da tre soldi. Io mi sono permessa di fare, con un po' di presunzione, un piccolo adattamento a questa poesia intitolandola Al signor sindaco. Davvero vivo in tempi bui. La parola innocente è stolta. Una fronte distesa vuol dire insensibilità. Chi ride la notizia atroce non l'ha saputa ancora. Mi dica, signor sindaco, quali tempi sono questi, quando discorrere d'alberi è quasi un delitto, perché su troppe stragi comporta silenzio, e l'uomo, che ora attraversa tranquillo la via, mai più potranno raggiungerlo dunque gli amici che sono nell'affanno? È vero, mi guadagno da vivere, ma credetemi, è appena un caso. Nulla di quel che fo m'autorizza a sfamarmi. Per caso mi risparmiano. Mangia e bevi, mi dicono, e sii contento di averne. Ma come posso io mangiare e bere quando quel che mangio a chi ha fame lo strappo e manca a chi ha sete il mio bicchiere d'acqua? Eppure mangio e bevo. Signor sindaco, io vorrei anche essere un saggio. Nei libri antichi è scritta la saggezza, lasciar le contese del mondo e il tempo breve, senza tema trascorrere, spogliarsi di violenza, rendere bene per male, non soddisfare i desideri, anzi dimenticarli, dicono, è saggezza. Mi ascolti, per favore, e mi guardi una volta, mi ascolti. Dica agli altri di ascoltare. Tutto questo noi non possiamo. Davvero viviamo in tempi bui. Grazie all'Arci e a tutte le persone presenti. Parlo adesso perché poi non vorrei parlare dopo la musica. Ci lasciamo con un brano, Recuerdos de la Alhambra, sempre di Tárrega, e chiedo per favore a chi se la sente di fermarsi a dare una mano per le sedie, dato che non l'avete portata in tanti, e diamo una mano all'Arci poi a caricare il camioncino. Grazie a tutti, grazie agli amici di Primaria Vere per Como, chi si vorrà aggiungere, e all'Arci per questa grande collaborazione. Grazie. Thank you.